in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore, perché in questi giorni si parla così tanto di riforma fiscale, partendo naturalmente dalla maxi riforma fiscale varata negli Stati Uniti dal Congresso, quella fortemente voluta dal presidente Donald Trump, ma ci sono novità anche in Italia. Il Sole 24 Ore oggi, a pagina 5, racconta con molti approfondimenti tutte le novità su azioni, cedole e derivati, perché la tassa sulle rendite è adesso al 26%. I redditi più elevati avranno i maggiori guadagni e naturalmente, come dicevamo, è una novità contenuta quindi nella manovra appena approvata, che elimina le differenze sulla vendita di quote societarie qualificate e non. Molto interessante anche l'approfondimento che poi trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, con uno schema chiarissimo che fa vedere quanto ancora il petrolio influenzi, il petrolio e le altre materie prime, per esempio tutte quelle che adesso diventano strategiche nell'industria tecnologica, quindi il platino, ma anche il rame, anche tante altre materie prime meno conosciute, metalli preziosi o non preziosi meno conosciuti, ma sappiamo che l'ultimissimo scossone ai mercati, alla fiducia e anche alle bollette energetiche delle aziende e delle persone l'ha dato l'attentato dell'ISIS in Libia contro un oleodotto, che però è soltanto una delle molte molti problemi che ci possono essere nell'approvvigionamento del petrolio. E trovate tutto alle pagine 2 e 3, ripeto, con una soluzione grafica che anche soltanto a un primo sguardo fa capire da una parte il problema del petrolio e poi quelli relativi a tutte le altre materie prime. In particolare ci sono proprio gli schemi con l'andamento dalla fine del 2016 a questi giorni, quindi fine del 2017, di oro, rame, alluminio, grano e caffè. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, anche un interessantissimo approfondimento di Marilena Pirrelli, che è esperta di arte, ma di arte ed economia, di arte e finanza, e ci racconta questo dato. Nel bilancio dello Stato il valore dell'arte è di 219 miliardi, è il censimento, potremmo dire così, dei beni culturali fatto dalla Ragioneria di Stato e da Banca Italia. Ci fermiamo però un attimo per la prima pausa sul traffico. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio, vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Abbiamo visto solo la prima pagina del Sole 24 Ore, passiamo alle altre. Il Corriere della Sera si concentra, come anche altri giornali, sulla questione dello ius soli. Per il Corriere della Sera è sicuro, camere chiuse senza ius soli. In realtà avete sentito anche nei GR, nei telegiornali, che c'è un esponente in particolare della minoranza del PD, Gianni Cuperlo, che ha chiesto formalmente 15 giorni di proroga. In realtà probabilmente oggi, al massimo domani, le camere verranno appunto sciolte. La fotonotizia però è tratta da un documentario, potremmo quasi chiamarlo, anche se in realtà è un'intervista, mandata in onda dalla BBC, dove il principe Harry ha intervistato l'ex presidente Obama. Tutti puntano i titoli e partono da queste dichiarazioni di Obama sull'uso irresponsabile dei social media, che credo sia così una specie di un'affermazione valida come quelle di un oroscopo. Certo che non bisogna usare in modo irresponsabile i social media, ma il Corriere della Sera decide di aggiungere queste parole per riassumere il riassunto dell'intervista, che poi trovate a pagina 10, fatto da Sara Gandolfi. Dice: ecco l'attacco all'uso irresponsabile dei social media, che ripeto mi sembra una frase anche abbastanza banale, e punto, scrive il Corriere della Sera, ogni riferimento a Trump non era puramente casuale. Credo che, insomma, sì, certo, Donald Trump, tra forse i molti motivi che hanno i suoi avversari per attaccarlo, cioè questo uso un po' esagerato, spasmodico di Twitter, per esempio, in particolare nel suo caso, ma credo che ci siano talmente tante persone nel mondo che usano in modo irresponsabile Twitter e altri social media che non so, mi riesce anche difficile pensare che Obama pensasse proprio a Trump per questo, perché credo che abbia ben altri argomenti per criticare il suo successore. E con il Corriere della Sera, come ogni giovedì in edicola 7, il settimanale, che non poteva che essere dedicato al 2017 che sta per chiudersi, e 7 ha scelto 70, perché no, anziché 170, persone, eventi, momenti, disastri e entusiasmi. Cosa ricorderemo del 2017? La Repubblica, come vi dicevo, molti giornali fanno questa scelta di concentrarsi sullo Ius Soli. Gentiloni, Ius Soli dopo il voto, quindi è una specie di compromesso quello che sembra proporre il Premier Gentiloni, quindi no a un prolungamento della legislatura per riportare in aula questo provvedimento. E qui le interpretazioni si sprecano, cioè non lo si vuole fare perché tanto verrebbe approvato solo con la fiducia, e Gentiloni non può permettersi alla vigilia della campagna elettorale perdere un voto sulla fiducia. Oppure si dice anche, tanto i sondaggi indicano che gli elettori di entrambi gli schieramenti non vogliono questa legge, quindi perché riportarla in Parlamento. In ogni caso Gentiloni dice non ce ne dimenticheremo, dopo il voto tornerà sull'agenda del Parlamento e del prossimo governo. La fotonotizia completamente diversa dagli altri giornali parte da un reportage che poi trovate a pagina 18 e 19 di Anna Lombardi, che è andata un po', a proposito di Trump e dell'opposizione interna, a vedere, ricorderete senz'altro le famose proteste sotto la Trump Tower, che è l'edificio dove hanno sede molti uffici delle varie società di Donald Trump, della fondazione, e dove c'è anche un appartamento dove lui e la moglie Melania e il figlio stanno quando sono a New York. È in una zona molto centrale di Manhattan, che soprattutto all'inizio ha anche causato problemi perché naturalmente c'erano ingenti misure di sicurezza tutto intorno. Si è raccolta soprattutto dopo le elezioni del novembre 2016, poi dopo l'insediamento nel gennaio del 2017, e ancora adesso, anche se non naturalmente con i numeri dell'inizio, ci sono le persone che protestano. Anna Lombardi è andata un po' a raccogliere queste voci, perché protestiamo da un anno sotto la Trump Tower. Questi vengono chiamati gli irriducibili di New York. La Stampa invece ha un'apertura diversa, perché a pagina 3 c'è una lunga intervista di Carlo Bertini a Matteo Renzi, e su questo La Stampa titola: Renzi, il piano su alleanze e riforme. Quindi si torna sia sul tema delle alleanze, che diventano molto importanti perché sapete gli ultimi sondaggi danno il PD al 23%, e naturalmente con il 23% non si può governare, quindi diventa fondamentale stringere delle alleanze il più presto possibile. E poi si torna anche sulla questione delle riforme, visto che poi Renzi, lo ricordate tutti, si è dimesso alla fine del dicembre 2016, dopo che il referendum per la riforma costituzionale, per la quale si era molto battuto, è stato bocciato dagli elettori. La fotonotizia è dedicata a Weah, George Weah, ex giocatore del Milan, anche molto famoso all'epoca. Nel 1995 vinse il Pallone d'Oro, l'Oscar del calcio, e ora sarà presidente della Liberia, che è il suo paese di origine. Per l'ex attaccante del Milan si attende solo la proclamazione, e all'interno ci sono tanti commenti e dichiarazioni di suoi ex, soprattutto ex compagni di squadra, tra i quali Albertini, che dice: in campo era già un leader. Il Messaggero ha un'apertura ancora diversa, anche se la fotonotizia è sempre quella di Harry, il principe Harry, seduto a questo tavolo che intervista Barack Obama. E il titolo principale però è dedicato alle intercettazioni, perché l'ultimo Consiglio dei Ministri, che è previsto per domani, modificherà, a quanto si apprende, la riforma sulle intercettazioni. E quindi il Messaggero titola: stretta a metà, più tutele per la privacy rispetto a quanto si era detto all'inizio, audio irrilevanti da distruggere, e il ministro della giustizia Andrea Orlando ha commentato: chi non è coinvolto non comparirà negli atti. Approfitto per ringraziare chi sta già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. Alcuni sono positivi, altri meno, ma va benissimo così, e quelli che sono meno positivi mi servono comunque sempre come per fare un po' di autocritica e capire che ovviamente questo è impossibile, non si può piacere a tutti, non si può avere uno stile o una sostanza anche che piace a tutti, però bisogna sempre ascoltare le critiche, in questo caso leggere le critiche. Avvenire, un'apertura ancora diversa, Avvenire oggi come ieri del resto, a mio parere, ha gli approfondimenti più interessanti di largo respiro, da una parte perché l'apertura è dedicata a questo rapporto di Eurostat che spiega come ci siano il successo costante, nonostante i tanti proclami, dei paradisi fiscali. Secondo Eurostat, Bermuda è il terzo paese che controlla più azioni di società dell'Unione Europea, da qui il titolo molto forte sull'Europa alle mani dei paradisi fiscali. Per questo, secondo Avvenire, Bruxelles, come dicevamo, ha scelto la linea morbida, nel senso, ho detto appunto, nonostante tanti proclami di combattere i paradisi fiscali, poi alla fine tutto questo e tutto questo accanimento non si vede. Vi dicevo, l'attenzione a quello che succede fuori dall'Italia, fuori dall'Europa. Ieri abbiamo visto come ci fosse una pagina intera dedicata allo Yemen, un paese che è sotto i bombardamenti da 1000 giorni, dove c'è in corso una delle più grandi epidemie di colera che si ricordino, sono 1 milione le persone contagiate. Oggi un altro reportage dal Venezuela, reportage da una nazione in ginocchio. In Venezuela ora non ci si può nemmeno curare, come sempre una delle prime conseguenze delle grandi crisi economiche, le prime conseguenze sociali, è che le persone cominciano a non potersi, non funzionano più gli ospedali, non ci sono più medicinali, e questo è quello che sceglie l'Avvenire per titolare, ma ci sono anche tantissimi altri problemi, anche di semplice approvvigionamento del cibo. Il giornale, il piano 1000 euro, il riferimento è alla proposta lanciata ieri da Berlusconi, che ha chiamato questo reddito minimo non reddito di cittadinanza ma reddito di dignità. E il giornale mette anche, sottolinea nel sommario, che l'idea è anche quella di avere sgravi per chi ha animali, sgravi fiscali, per esempio sulle spese per veterinarie. La fotonotizia, tra l'altro la stessa scelta di Libero e credo anche della Verità, è invece, sì esatto, il giornale Libero e la Verità hanno la stessa fotonotizia, ed è questo filmato circolato in rete, a proposito di uso un po' irresponsabile dei social media, ma non so neanche se sia così irresponsabile, dove il pilota campione del mondo Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, ha commentato, ha deriso davanti a queste telecamere improvvisate suo nipote che aveva un tutù. E l'incredibile enfasi che è stata data in rete, le reazioni a questa, poteva essere anche una battuta un po' così, sì, detta a cuor leggero, e poi però l'enfasi data anche in questo caso dai nostri giornali, non so quanto, verificherò oggi pomeriggio, quanto invece sia finita poi sulle prime pagine dei giornali inglesi, per esempio, l'enfasi appunto data a questa sì, pseudo notizia di Hamilton che dice, che deride il nipote in tutù e quindi accuse di omofobia, di razzismo e quant'altro. Quindi vi dicevo, è la fotonotizia del giornale, è la fotonotizia di Libero, il pilota Hamilton dice al nipote di non vestirsi da donna, viene linciato, però l'apertura di Libero in realtà è dedicata alle tasse, dicevamo. La riforma, prendendo spunto dalla riforma che è diventata legge negli Stati Uniti, la riforma sulle tasse di Trump con questi grandi sgravi fiscali, il titolo Tuvo fa l'americano, quanto ci guadagneremmo con la riforma Trump. Se l'Italia attuasse il piano fiscale del presidente USA, ogni contribuente si ritroverebbe in tasca un paio di stipendi in più all'anno. Io tutte le volte che vedo questi confronti tra i regimi fiscali di altri paesi e quello dell'Italia, mi viene subito da pensare che è tutto sommato un esercizio inutile, perché noi in Italia, lo ripeterò fino alla nausea, essendo da sempre una lavoratrice a reddito fisso, ma non è solo per questo, però di quello che dico su questo posso essere sicura, in Italia abbiamo questo gigantesco problema dell'evasione fiscale. Quindi finché non mettiamo a posto quello, secondo me, parlare di flat tax, sgravi fiscali, finché c'è questa anomalia, ci sono le persone che si dichiarano nullatenenti e poi si scopre che nullatenenti non sono, c'è comunque un reddito medio dichiarato inverosimile per comunque il livello di sviluppo economico del nostro paese, perciò insomma questi confronti mi sembrano un po' così, lasciano il tempo che trovano. Però adesso invece noi ci lasciamo un attimo per una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali, ancora grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi. Vi segnalo dalla prima pagina di Libero, oltre alla fotonotizia su Hamilton, anche una breve articolo, breve intervento di Filippo Facci, che poi vi abbinerò a un'intervista che invece è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano sulla questione di cui abbiamo parlato anche ieri, del consigliere di Stato Francesco Bellomo, che è accusato di molestie sessuali. E Filippo Facci scrive: i dettagli su quanto il consigliere Francesco Bellomo sia porco e copyright di Enrico Mentana, Enrico Mentana che così senza preavviso lo ha definito in diretta in un TG così, ed è ora, quindi si può dire tranquillamente, pare, li trovate in un altro articolo, e così pure gli aggiornamenti sui contratti di schiavitù fiscale, di schiavitù sessuale, perché poi c'è anche la cronaca appunto su Libero, per questo Filippo Facci precisa, è proprio un commento il suo. Ciò posto, virgola, scusate, e scrive Filippo Facci, il corso di Bellomo era un corso non obbligatorio per affrontare l'esame per magistrato. I contratti di Bellomo erano palesemente nulli, continua pagina 8, perché nessun contratto può imporre pretese del genere e per saperlo basta non essere scemi. Alcuni contratti venivano firmati da borsiste che avevano accettato una relazione sessuale con Bellomo, approccio che ci è difficile pensare spontaneo e slegato ai buoni esiti del corso. Detto questo, insomma, attenzione, una che accetta di vestirsi in un certo modo e così truccarsi, e i tacchi e le calze, una che accetta clausole che vietavano i matrimoni e condizionavano i fidanzamenti e autorizzavano a mettere in rete ogni dettaglio sessuale, una che crede che altrimenti avrebbe pagato 100.000 euro di penale, beh, una così ha una fisiologica propensione a essere zoccola. Aperta parentesi, auguri per qualsiasi carriera. Oppure è troppo stordita per poter fare il mestiere del magistrato. Troppo facile da circonvenire o corrompere, comunque sprovvista dell'equilibrio necessario a decidere della vita altrui. Lo diciamo non solo perché l'ingresso in magistratura non prevede esami psicoattitudinali, ma perché molte borsiste di Bellomo, magistrati, anzi magistrate, lo sono già diventate. Stordito Bellomo invece no, mai. Piacerebbe leggere un commento di Filippo Facci con la stessa, chiamiamola, ironia, appunto sui tratti caratteriali di Bellomo. E a proposito di questa vicenda, vi dicevo, un'intervista, pagina 7 del Fatto Quotidiano, di Selvaggia Lucarelli a Mara Scatigno, che era una studentessa modello, è stata anche una bellissima ragazza, è stata anche finalista a Miss Italia, che è un concorso di bellezza che ce lo spaccino come, non lo so, concorso di personalità. E nella sua intervista dice: Bellomo mi ricattò, o lasci la TV oppure addio alla borsa di studio. Quindi direi che giudicare queste ragazze, ma anche giudicare Bellomo così frettolosamente come fa Facci, quando probabilmente erano situazioni, anzi sicuramente situazioni, zone grigie, così è un po' troppo semplice. La verità, numeri uno in povertà, ha un titolo quindi ancora diverso, perché non usciamo dalla crisi. Sapete che l'Italia, per esempio in Europa, è tra i paesi che più fa fatica a uscire da questa lunghissima crisi finanziaria ed economica iniziata più o meno per convenzione nel 2008 con il crack di Lehman Brothers negli Stati Uniti. Anche qui però la fotonotizia, come vi dicevo, di Lewis Hamilton che dice al nipote: no, nipote, non devi vestirti da principessa, e viene linciato sui social. Il Fatto Quotidiano ha in copertina l'intervista che vi ho citato, ma soprattutto un'intervista, il titolo di un'intervista che poi trovate a pagina 5, a Luigi Di Maio, candidato del Movimento 5 Stelle a Premier, che proprio spiega: così farò il governo. Vi leggo un paio di domande e risposte. Chiede Luca De Carolis: lei ritiene il 40% possibile, cioè il Movimento 5 Stelle, che alle elezioni del 4 marzo arrivi al 40%. Ma in Sicilia il 35 lo ha preso il candidato governatore, non la vostra lista, arrivata solo, tra virgolette, al 27. E Di Maio risponde: avevamo impostato la campagna sul candidato del movimento e quello resta un ottimo risultato, visto il forte voto di scambio. Sul piano nazionale certi fenomeni peseranno molto meno e nelle politiche non ci sarà il voto disgiunto, la gente dovrà scegliere. Un'altra, a proposito di, ne abbiamo parlato ieri, ne parliamo anche oggi, di alleanze che naturalmente si delineeranno meglio, abbiamo mesi davanti per capire chi si alleerà con chi. Chiede De Carolis: con Liberi Uguali i contatti potreste aprirli prima? Consiglierei di andare piano con questo innamoramento per Pietro Grasso, che è il leader, colui che ha fondato e lanciato, attuale presidente del Senato, finché il Senato ancora è riunito. Ha lanciato appunto questo movimento Liberi Uguali e Di Maio precisa: ripeto, bisogna vedere quanti parlamentari prenderà ogni partito, credo che noi triplicheremo i nostri eletti. Nel 2013 ci ricorda De Carolis, furono 163. Il Foglio a proposito di Movimento 5 Stelle ha un articolo di Adriano Sofri che scrive ogni giorno sul Foglio e che si intitola "Contro la folle sinistra che sceglie Di Maio". Discutiamo pure su chi sia il meno peggio, ma sia chiaro che il peggio è il Movimento 5 Stelle. Molto chiara quindi l'opinione di Adriano Sofri. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore. C'è un approfondimento nella prima pagina di Imprese e Territori che parte da un'anticipazione del monitor Intesa San Paolo che prende in esame e poi racconta con dati ma anche fatti i distretti industriali italiani. Sapete, sono una grande ricchezza dell'Italia, sono a volte piccoli, a volte grandi, a volte molto grandi, sono specializzati e sono stati per tantissimi anni, così come all'interno dei distretti lo sono le piccole e medie imprese, la spina dorsale del nostro paese. Quello che è andato meglio anche in rapporto a quanto sia il fatturato complessivo, che sfiora il miliardo, è quello delle pelli di Firenze, che vale 887 milioni ed è cresciuto in un anno, sono i primi 9 mesi del 2017 confrontati con i primi 9 mesi del 2016, è cresciuto quasi del 10%. Ce lo racconta tutto Luca Orlando, che appunto poi prende in esame anche tanti altri distretti famosi come quello dell'oroficeria di Valenza o quello dei dolci di Alba e Cuneo, o ancora, per chi forse non lo sapesse, io per esempio non sapevo che ci fosse questa specializzazione, quello della meccatronica a Bari, che è cresciuto del 20,2%. E vi racconto questo piccolo retroscena all'articolo che poi trovate a pagina 17. Ieri in riunione di redazione è stato annunciato questo articolo di Jacopo Giliberto, che come dico sempre è il nostro grandissimo esperto di tutte le questioni energetiche, sul fatto che mancando l'acqua l'attività idroelettrica è crollata ai minimi, e naturalmente dicevamo forse non è proprio il giorno ideale per pubblicarlo, visto che piove un po' in tutta Italia. Purtroppo un giorno, due, tre, quattro di pioggia non cambiano la situazione, e quindi l'articolo è stato giustamente pubblicato con una grande enfasi. Il 2017 si avvia ad essere l'anno più secco dal 1800 l'Italia che si affida molto all'energia idroelettrica ha le dighe vuote e a novembre, pensate, la produzione è crollata del 37,1%. E sempre a proposito di energia, in questa pagina 17 del Sole 24 Ore, un caso raccontato da Marco Morino, che invece scrive di tante cose ma ha una particolare conoscenza di tutto quello che riguarda i trasporti e gli aeroporti, e ci racconta come Malpensa illumini gli scali italiani. Infatti SEA, che è la società che gestisce Malpensa, ha vinto la gara per la fornitura di energia elettrica agli aeroporti di Napoli, Torino e Alghero. Questi tre scali saranno interamente alimentati per i loro fabbisogni elettrici dalle centrali installate nei due hub milanesi, perché la SEA gestisce sia l'aeroporto di Malpensa che quello di Linate. A proposito di ripresa, i dati che vengono dalla borsa danno un ulteriore segnale di ripresa, perché nel 2017 c'è stato un record di IPO, che sta per Initial Public Offerings, cioè le aziende che vanno in borsa, che debuttano in borsa, che si quotano. Vi segnalo anche, a proposito della commissione sulle banche, che come sappiamo termina i suoi lavori, perché corrisponde la durata dei lavori poteva corrispondere solo alla durata della legislatura, un articolo di Giorgio Lamalfa e Paolo Savona a pagina 12, lezioni utili e cacofonie elettorali. La commissione parlamentare, al di là delle strumentalizzazioni politiche, le audizioni hanno evidenziato confusione sia a livello di competenze che di norme. Serve più collaborazione tra gli organi di vigilanza, maggiore trasparenza nella comunicazione delle criticità ai risparmiatori. Quindi l'auspicio che quello che la commissione è riuscita a fare nei pochi mesi in cui ha potuto lavorare venga comunque raccolto dal prossimo Parlamento, quando inizierà la prossima legislatura, e dal prossimo governo, ciascuno con le competenze. Dal Corriere della Sera, le pagine di economia, un aggiornamento sulla vicenda Alitalia. Vendita Alitalia alle battute finali, la favorita è la tedesca Lufthansa. Ieri il ministro Calenda ha spiegato che ci sono tre offerte e che ci sarà una trattativa esclusiva a gennaio, chiusura possibile entro febbraio. Quindi l'intento dichiarato è quello di chiudere la vicenda prima delle elezioni. Poi vi segnalo una bella intervista di Valerio Cappelli a Riccardo Muti, che dirigerà, credo per la quinta volta nella sua carriera, il concerto di Capodanno di Vienna, che è forse il concerto di musica classica più famoso, non solo di Capodanno ma di tutto l'anno, e racconta anche che farà una direzione molto seria. Sapete che soprattutto verso il finale, quando ci sono i valzer, alcuni direttori d'orchestra, tra questi Zubin Mehta, di cui viene pubblicata una foto, cercano di dare un tono più leggero e più scherzoso, ma Riccardo Muti invece annuncia che la sua sarà una direzione molto seria. Dice no ai cappelli da capostazione, appunto se lo mise una volta Zubin Mehta, neanche von Karajan, il grande direttore d'orchestra, faceva scherzi. No, sicuramente Karajan non faceva scherzi. A proposito di campagna elettorale, ad alcuni potrà sembrare incredibile, a me per esempio, D'Alema è già in campagna elettorale, è già molto impegnato in campagna elettorale, e ha iniziato dalla Puglia, la sua regione natale, proprio nel Salento, da dove partì anche Prodi per la campagna elettorale, che poi lo portò alla presidenza del Consiglio. E il virgolettato che sceglie Fabio Martini per titolare questo colloquio è: non credete a Renzi, il nostro vero leader è Grasso. Come è sempre bello questo spettacolo di liti, di vendette e di mancanza di sintonia all'interno del centro-sinistra. A proposito di tasse, questa è una notizia veramente curiosa, e l'ho trovata solo sulla Stampa, che sicuramente insieme all'Avvenire è anche oggi il giornale che dà più notizie prese dall'estero. La rivoluzione delle tasse, anche i sauditi scoprono l'IVA. Io scopro che in Arabia Saudita l'IVA non si pagava, e ora scopro che da gennaio dovranno pagare il 5%. Sapete che in Italia più o meno è del 20%, a volte anche superiore, per i sauditi. Sauditi invece sarà un'assoluta novità. 6 milioni di dollari gli emiri della federazione mirano a raccogliere in un anno oltre 3 miliardi di dollari, 6 miliardi scusate, mentre l'Arabia Saudita punta a 6 miliardi nel 2018. Emergenza capitale, allora avete sentito sicuramente dell'emergenza maltempo, una grandinata che ha sconvolto un po' la città ieri, ma c'è anche un'emergenza rifiuti, l'ennesima, la racconta il Messaggero a pagina 11. Ci fermiamo però un attimo per la seconda pausa sul traffico. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Ho messo insieme quattro parole senza correggermi e impappinarmi, lo dico all'ascoltatore che appunto manda questo messaggio. Comunque ringrazio anche lui e tutti gli altri che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. E dalle pagine del Messaggero vi segnalo, visto che ci stiamo avvicinando a Capodanno, con il prevedibile eccesso di botti, nuove rotte e asse con i cinesi, così la camorra muove i botti. I clan della camorra, secondo questa inchiesta del Messaggero di Michela Allegri e Sara Menafra, fanno affari con la mafia orientale e la centrale di smistamento è la Campania. Le fabbriche di fuochi aprono e svaniscono nel nulla subito dopo l'ultimo dell'anno. C'è naturalmente anche la questione di quanto i petardi, i botti o anche i fuochi d'artificio, oltre come ogni anno purtroppo a fare alcuni feriti, disturbino le persone e anche gli animali, e quindi ci sono come ogni anno sindaci che emettono ordinanze per vietarli. Niente petardi, cani e gatti hanno paura, anche Roma con il sindaco Virginia Raggi ci riprova. Un bellissimo articolo sull'Avvenire che si occupa di un tema credo importantissimo in Italia, ma in tutti i paesi, ma in Italia forse ancora di più, perché veniamo costantemente ripresi da Amnesty International e altre organizzazioni per il sovraffollamento delle nostre carceri. E Paolo Viana racconta: così la giustizia riparativa riconcilia vittime e carnefici, condivisione e ascolto reciproco per curare le ferite. Questo naturalmente vale per le nostre carceri, ma vale anche per altri grandi conflitti che ci sono stati nel mondo. Ricordo sempre il caso del Sudafrica, dove dopo la fine dell'apartheid si aprì appunto questo grande processo di riconciliazione. Poi certo sicuramente non ha avuto successo al 100%, però come scrive Paolo Viana, riprendendo questo libro La giustizia capovolta dal dolore alla riconciliazione di Francesco Occhetta, spiega: riannodare i fili spezzati dal reato, una sfida culturale che per funzionare ha bisogno di coinvolgere la società civile. E poi naturalmente si racconta anche l'impegno in questo senso della Chiesa nel territorio. Vi dicevo la pagina sul Venezuela. Venezuela, negli ospedali non è rimasta che la pietà, la sanità è in ginocchio, la mortalità alla nascita è triplicata. 7 cliniche su 10 sono chiuse da tempo, il 63% delle strutture pubbliche non ha acqua potabile, a questo si aggiunge la diffusa malnutrizione. Poi c'è l'iperinflazione che ha reso difficile per moltissimi festeggiare il Natale. Preparare una zuppa tradizionale per 5 persone, ad esempio, costa la metà di un salario minimo mensile. Queste emergenze però di povertà estrema le abbiamo anche in Italia, e l'Avvenire sempre racconta: emergenza a Roma, 3.000 senza un tetto. Il Campidoglio ha annunciato 230 posti in più, secondo l'Avvenire però ce ne sarebbero in realtà soltanto 40, e quindi c'è solo da sperare che appunto il freddo almeno a Roma non peggiori. E a proposito di freddo e di situazioni estreme, scusate, sapete, un po' una mia fissazione, sempre l'Avvenire che racconta il pasticcio casette. E siamo ad Accumoli e a Visso, in provincia di Macerata. La protezione civile è andata a vedere queste casette, lavori fatti male. Molte strutture senza caldaie né impianti. Vi dicevo, forse ieri ricordate, abbiamo segnalato questa notizia data con grandissimo risalto dai giornali tedeschi, in particolare dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, su questo sondaggio che indica che un tedesco su due a questo punto preferirebbe che Angela Merkel facesse un passo indietro, e quindi auspicando anche che prima o poi venga formato un governo. La Germania in questo momento è senza un governo, perché dopo le politiche non è uscita una maggioranza chiara, e la SPD si rifiuta a oggi di formare una sorta di grosse coalizioni bis con la CDU e la CSU, cioè centrosinistra insieme a centrodestra. E il giornale dà risalto a questo sondaggio: un tedesco su due è stufo della Merkel, malgrado i buoni dati economici pesa il ritardo nella composizione del governo. Molto bello per alleggerire un po', ma anche credo poi alla fine sia un tema che affascina tutti. L'approfondimento del Foglio di Paolo Galati, un anno con gli occhi al cielo. Tra annunci roboanti e importanti scoperte, nel 2017 la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, e il Cosmo sono tornati al centro dell'immaginario, risvegliando l'antica domanda: siamo soli nell'universo? Altre notizie così un po' laterali, se vogliamo. Il Corriere della Sera racconta una bella storia, lo fa Marta Serafini a pagina 13, di una giocatrice di scacchi ucraina, si chiama Anna Muzichuk, ha 27 anni, è nata in Ucraina, campionessa del mondo femminile in carica di scacchi cosiddetti rapidi, ma siccome doveva fare una gara a Riyadh, ma avrebbe potuto andarci soltanto velandosi, dice: non metterò il velo integrale. La scacchista boicotta i sauditi. L'Ucraina Muzichuk rinuncia alla gara a Riyadh, e tra l'altro in questa stessa gara è stato vietato il visto agli scacchisti israeliani. Sempre un po' così per alleggerire, per l'appunto, la Repubblica oggi ha un supplemento che si chiama Food, e si concentra, la copertina è tutta sulle birre, la birra delle feste. Dal Belgio all'Italia, tra Natale e Capodanno, bottiglie e ricette cambiano abito e ingredienti. Queste sono le pagine dedicate ai brindisi, con anche naturalmente approfondimenti su come fare un cincin all'italiana, cioè con lo spumante da quelli di Trentini a quelli della Francia Corta, magari anziché con lo champagne. E poi altri approfondimenti sempre legati appunto al food: c'è una pagina sulle verdure, una pagina sui formaggi, e poi divertente questo articolo di Emanuela Giampaoli che si intitola Giorgio Morandi e l'arte in cucina. Giorgio Morandi, il grandissimo artista italiano, dalle ricette agli utensili, gli stessi riprodotti dal pittore nelle sue tele e ora raccolti in un libro che svela la sua passione per il buon cibo. A proposito di cibo, un reportage, in questo caso pubblicato dalla Stampa, dal Cile: tra cappelletti e prosciutti nel paese del profondo Cile che parla e cucina italiano. Il Cile, insieme all'Argentina e a tanti altri paesi, è stato meta di grandi migrazioni dall'Italia. Questo ristorante si chiama Capitan Pastene, si trova nella regione di Capitan Pastene, c'è una comunità di immigrati da Modena arrivata un secolo fa, è circa a metà di quella lingua di terra affascinante che è il Cile, che confina ovviamente quasi interamente con l'Argentina, poi a nord confina tutto con l'Argentina, è come una specie di quasi di coperta dell'Argentina, potremmo dire, e è per questo appunto dicevo che molte migrazioni dall'Italia sono state in Argentina, altre in Cile e poi naturalmente anche verso il Brasile e altri paesi del Sud America. La foto di questo cileno di origini italiane, si chiama Angelo Fubini, ha 50 anni e è stato fotografato dietro a un bancone di un antico magazzino convertito in locanda, che vi assicuro, se non sapessimo che la foto è scattata appunto nella regione di Capitan Pastene, potrebbe anche essere stata scattata a Modena, perché dietro ci sono quei bellissimi prosciutti e salami e altri salumi. Il Macro, il supplemento del Messaggero, si dedica invece a Elena Ferrante. Sapete, circolano tantissime voci su chi sia davvero questa scrittrice, che ha avuto molto successo in Italia, ma anche negli Stati Uniti in questo momento. C'è addirittura la foto, per illustrare l'articolo, è una foto scattata in una libreria americana dove c'è un neon che recita Ferrante Fever. C'è infatti una vera e propria febbre, anche perché questa scrittrice viene ancora considerata una scrittrice fantasma, non si sa bene chi sia, e molti scrittori e personalità americane si sono appassionati alla lettura della sua saga. Per esempio Jonathan Franzen, che è uno dei più importanti scrittori americani contemporanei, dice: l'amica geniale, uno dei libri più famosi di Elena Ferrante, mi ha regalato i migliori momenti da lettore. L'ha letto anche Hillary Clinton, l'amica geniale, che è il primo della serie, e dice: mi ha ipnotizzato, ho dovuto razionare la lettura del secondo volume. E poi un articolo sui dialetti, un approfondimento, l'ho trovato a pagina 27 del Messaggero, la pagina 3 di questo supplemento macro. La notizia la trovate anche su altri giornali, ma non con questa enfasi, e riguarda i dialetti, l'uso del dialetto. Insieme con l'italiano, infatti, nel nostro paese avanzano le lingue straniere a discapito degli idiomi locali. Questo è il quadro del nostro paese, fotografato dall'ultima ricerca Istat, dove purtroppo ci sono anche dati molto negativi sul numero di italiani che leggono libri ogni anno. E comunque, per quanto riguarda i dialetti, tra le donne e nelle aree del nord-ovest e del centro il fenomeno è più evidente. Il dialetto è in crisi, ma piace sul web. Sono rimasti solo il 14% degli italiani a esprimersi usando prevalentemente il dialetto. 32% degli over 75 parla in modo esclusivo o prevalente il dialetto, e il 40% degli italiani, questo è il dato che vi dicevo, ha letto almeno un libro nel 2016. L'anno prima la percentuale era del 42%, quindi veramente un dato abbastanza sconfortante. Io cerchiamo sempre di promuovere la lettura, a volte penso che semplicemente non si legga, perché tante persone non sanno che, a parte magari l'ostacolo iniziale di concentrarsi, di leggere la parola scritta, poi in realtà la lettura apre dei mondi fantastici. E poi, come dice Daniel Pennac, se un libro non piace si può chiudere e cercarne un altro. Ultimissima segnalazione prima di lasciarci, di darci appuntamento a domani: oggi c'è in edicola anche Panorama, e un po' come Sette racconta l'anno che sta per chiudersi. Storie, reportage, interviste per raccontare le tante facce del nostro paese. Vanity Fair, invece, che avevo ricevuto in mazzetta ieri, ma credevo non fosse mio, invece ho scoperto che apparteneva alla mia mazzetta, c'era anche appunto Vanity Fair. In copertina ci sono Jennifer Lopez e il suo nuovo compagno Alex Rodriguez, che è un ex campione di baseball, e raccontano un po' tutte il loro otto volante personale e anche come coppia. Era l'ultima segnalazione per oggi, come vi dicevo ci risentiamo domani mattina sempre intorno alle 7:10. Grazie ancora a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi al 349-238-6666, e grazie a Peter Bescapè in regia. Una buona giornata da Giulia Crivelli.